Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi vi parlo del cuore. Il cuore è quello che viene considerato la sede dei sentimenti. I poeti hanno dedicato al cuore migliaia di versi, i letterati hanno scritto migliaia di pagine sul cuore, i cantautori hanno scritto migliaia di canzoni dove si parla del cuore. Anch'io mi sono avventurato in questo territorio, però gli studi della medicina moderna e anche del buon senso ci hanno permesso di capire che la vera sede dei nostri sentimenti non è il cuore, è il cervello. E mi auguro che sia il cervello. Uomini all'ascolto, fate in modo che ciò che guida i vostri sentimenti sia il cervello, non scendete più in basso. È lui che comanda al cuore di battere più forte, perché ha bisogno di ossigeno per affrontare un'emergenza, o perché ci siamo innamorati, o perché stiamo facendo dello sport, o perché stiamo sentendo una bella canzone, chi lo sa. Insomma, il nostro cuore non è altro che una pompa meccanica che spinge il sangue nelle vene, e avere sdoganato in qualche modo il cuore dal suo ruolo di gestore di sentimenti ad altro ha permesso di cambiare opinione anche nei confronti del trapianto di cuore, che è un intervento che è sempre stato considerato impossibile, sia per questioni di carattere tecnico, ma anche proprio per questioni di carattere morale, direi quasi filosofico. Bene, perché vi dico tutto questo? Perché noi dedichiamo la nostra puntata di oggi a un uomo che è un pioniere della medicina, un uomo che nella metà degli anni 60 ha sfidato le leggi della natura e ha legato indissolubilmente la sua vita al trapianto del cuore, considerato ai suoi tempi una pratica folle, sperimentale, da effettuarsi solo sugli animali. Un uomo che ha avuto cuore, ma ha avuto cervello e fegato, se vogliamo andare sui luoghi comuni. Non si è fermato di fronte alle difficoltà. Il nostro protagonista di oggi è il cardiochirurgo sudafricano Christian Barnard, il primo uomo al mondo ad aver effettuato il trapianto del cuore a un essere umano. Per farvi capire subito con chi stiamo per confrontarci, per entrare nello spirito di questo personaggio incredibile, cominciamo ad ascoltare uno spezzone di un'intervista che fu fatta a Barnard quando era già famosissimo. Tutti gli chiedevano sempre la stessa cosa: cosa fare per non ammalarsi di cuore? Proviamoci anche noi. Unfortunately, I can't give them too, but... Sfortunatamente non posso dare dei consigli che siano veramente utili, perché i fattori genetici sono molto importanti nella formazione delle patologie cardiache. Purtroppo ci si nasce con quei geni cattivi, si ereditano dai genitori e c'è poco da farci. Ci sono alcuni fattori ambientali che si possono evitare, ma seguiteli entro i limiti che non rendano la vostra vita una vita miserabile. Evitate di fumare, non mangiate cibi troppo ricchi di grassi, fate regolare esercizio fisico, non diventate sovrappeso. Queste sono le cose che potete fare. Ma per il resto io non sono uno ossessionato e non spingo i miei pazienti a fare una vita miserabile sperando che questo prevenga gli attacchi di cuore. Io ad esempio lavoravo con un bravissimo cardiologo che aveva una brutta storia di malattie cardiache nella sua famiglia. E tutte le volte che andavamo a mangiare fuori era veramente un miserabile, perché non mangiava questo, non mangiava quello, cercava sempre di evitare i grassi. Ma poi è morto di un tumore al pancreas, non di una malattia cardiaca. È un errore essere ossessionati dai fattori di rischio e rendere la vita dei pazienti miserabile per cercare di prevenirli. Parole sante, parole sante. E poi, insomma, un cardiochirurgo che consiglia di non essere ossessionati dai fattori di rischio e dà valore non solo alla vita, ma anche alla qualità della vita. Io continuo a pensare che uno muore quando decide di morire, salvo ovviamente i casi drammatici di sfortune epocali. Comunque, non stiamo parlando di me, ma di Barnard, che era un grande cervello e che ha avuto una vita ricchissima di eventi, l'ha vissuta con grande coraggio e con grande trasporto. Christian Barnard nasce l'8 novembre 1922 a Beaufort West, la più antica e popolosa città del Grand Karoo, che è una regione desertica del Sudafrica. Il padre è un missionario della chiesa protestante olandese, insegna ai suoi 5 figli l'amore per il prossimo e lui impara da subito, intanto a non fare differenza tra neri e bianchi, cosa insomma in Sudafrica non scontata. Diventa subito uno strenuo sostenitore di Nelson Mandela, cosa in Sudafrica abbastanza rischiosa. E cita spesso la poesia di William Henley che Mandela si ripete per 28 anni durante la sua prigionia. Dalla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non s'è piegata la mia testa. Di là da questo luogo d'ire e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine, ma in faccia agli anni che minacciano sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. E fin da piccolo Barnard vuole essere il capitano della sua anima e sente un grande trasporto verso il suo prossimo. Insomma, sceglierà una professione che gli permetterà di seguire questa sua inclinazione, diciamo, all'altruismo. Poi però accade oltretutto un fatto drammatico che concorre a tracciare definitivamente la sua strada, perché uno dei suoi fratelli, Abraham, si ammala gravemente di cuore e a soli 5 anni muore. Così Christian prende la sua decisione, studierà medicina per poter curare e salvare più gente possibile. Così diventerà un cardiochirurgo. Il falco e il gabbiano. E arriviamo al 1946, anno in cui Christian Barnard si laurea in medicina a solo 24 anni. Inizia a lavorare al Groote Schuur, il modernissimo ospedale di Città del Capo, del quale prima o poi tutto il mondo parlerà, poi capirete perché. E si specializza ovviamente in cardiochirurgia, poi si trasferisce al City Hospital. È un giovane medico di belle speranze e anche di bella presenza, perché ha un fascino indiscutibile, è molto ambito dalle infermiere e difatti si sposa subito con una infermiera, Aletta Love, dalla quale avrà 2 figli. La sua determinazione, la passione che mette nei suoi studi, nella pratica di medico tutti i giorni, nella volontà di salvare ogni vita umana, lo fanno notare alla commissione interna dell'ospedale, che gli offre un master in medicina. Nel 1953 vince una borsa di studio che gli permetterà di trascorrere 2 anni in America, a Minneapolis. Si perfezionerà in chirurgia cardiotoracica con il professore Owen Weinstein, che è un professore molto celebre di quegli anni. Lui rimane negli Stati Uniti dal 56 al 58, dirà così di questo periodo: i 2 anni passati negli Stati Uniti sono stati il momento più affascinante della mia vita. La conoscenza è come una montagna che va scalata. Quanto più alta è l'ascesa, tanto più vasto sarà il panorama. E negli Stati Uniti Barnard comincia a sperimentare delle tecniche avveniristiche. Conosce Norman Shumway, che è un cardiochirurgo statunitense che, come lui, è convinto che prima o poi l'evoluzione della medicina porterà al trapianto di cuore negli esseri umani, cose che in quel momento facevano sorridere il resto del mondo. Però i 2 si confrontano, cominciano a sperimentare, ripetono le tecniche apprese da Weinstein su cavie animali, e questo la dice lunga insomma su tutti quelli che dicono no, oddio, gli animali su cavie animali, e poi migliaia di persone verranno salvate. L'esperienza americana porta Barnard a perfezionarsi nelle tecniche del trapianto. Rientrato in Sudafrica riesce a ripetere l'operazione di un trapianto del rene già avvenuta negli Stati Uniti e pone l'attenzione mondiale su lui e sul suo ospedale, il famoso Groote Schuur, ed è la seconda volta che ritorna a questo ospedale. È un'unità sanitaria di altissimo livello. Il nostro protagonista però ha sempre in mente lo stesso pensiero: quelli che soffrono di problemi cardiaci sono tanti, troppi, e uno fu il fratello, quindi è anche un nervo scoperto del suo passato. Lui non avrà pace fino a quando non sarà in grado di effettuare il trapianto più difficile, il più rischioso, ma anche quello più atteso da tutti e dalla storia: il trapianto del cuore. I suoi colleghi naturalmente lo giudicano un visionario per questo suo sogno di poter ridare un futuro ai cardiopatici gravi, quelli che non hanno speranza. Bene, lui non si lascia intimidire, va avanti per la sua strada, costituisce la prima unità coronarica al Groote Schuur, crea uno staff, un'equipe medica di livello altissimo e tra l'altro chiama presso di sé il fratello minore Marius, che anche lui è un medico, e racconta così questo passaggio particolare della sua vita. I wanted to be a vascular surgeon, that was my desire. Io volevo fare il chirurgo vascolare, ma non ero riuscito a trovare un posto con quella mansione. Ero sposato, avevo 3 figli, non avevo soldi e non avevo un lavoro. E così Chris mi chiamò a lavorare nel suo reparto in qualità di cardiochirurgo. Io non avevo mai desiderato diventare un cardiochirurgo e soprattutto non avevo mai desiderato lavorare con Chris, ma le circostanze mi forzarono a scegliere quella soluzione. Circumstances forced me into it. Insomma, Marius Barner non voleva fare il cardiochirurgo, non voleva lavorare col fratello, però è comprensibile anche l'altra parte, cioè che Christian cerchi di circondarsi di medici migliori e soprattutto di coloro dei quali si fida ciecamente. La sua equipe deve essere la più esperta e meglio affiatata del mondo se vuole provare a compiere quella che tutti giudicano una follia, cioè il trapianto di un cuore umano diventa il suo obiettivo, quasi la sua ossessione. Intanto esegue una prima operazione a cuore aperto mai effettuata in tutto il continente africano. Continua a fare esperimenti che lo portano a ritenere la sua equipe, il suo ospedale e soprattutto se stesso pronti per il grande passo. Bene, le difficoltà che Barnard e la sua equipe devono affrontare sembrano insormontabili. Intanto bisogna trovare un donatore compatibile. In quegli anni ancora non esiste una cultura collettiva a riguardo, cioè le associazioni di donatori di sangue sono ai primordi, la gente pensa che ci siano controindicazioni, addirittura religiose. Figuriamoci donare il cuore, un altro problema è quello dei rigetti. Si parla di rigetto quando il sistema immunitario di un paziente che è stato sottoposto a trapianto attacca il nuovo organo riconoscendolo infettivo come fosse un virus. Questa è una problematica seria che preoccupa molto Barnard, perché il chirurgo sa bene infatti che i farmaci immunosoppressori che inibiscono l'attività di rigetto indeboliscono anche le difese dell'organismo, e perché l'organismo è già provato dalla malattia e dall'operazione, insomma mettono a serio rischio la vita del paziente, però lui persevera. Il progresso deve andare avanti e permettere operazioni che salvino la vita a migliaia di pazienti. Ogni singola esistenza è preziosissima e questo lo scriverà anche nella sua biografia. La singola vita di un essere umano non è meno preziosa di tutte le altre vite messe insieme. Il compito del medico è preservare questa vita il più a lungo possibile. Siamo arrivati al 1967, con la disponibilità di nuove tecniche chirurgiche innovative, anche se sperimentali. Esistono al mondo molte equipe mediche che in teoria possono ritenersi pronte a eseguire il trapianto di cuore umano. C'è non solo quella di Barnard. C'è un gruppo guidato da Norma Shumway, il cardiochirurgo statunitense che Barnard aveva conosciuto a Minneapolis. Insomma, il mondo scientifico è in fermento. La realizzazione di questa impresa straordinaria mai tentata al mondo è nell'aria. È un'impresa che rappresenta l'anno zero di una nuova era dell'umanità. Però accoglierla, a tentare per la prima volta, deve essere lui, il coraggioso e preparatissimo dottor Christian Barnard. E tra poco scopriremo chi vincerà questa gara per la scienza e per il progresso. Il falco e il gabbiano. Dicembre 1967, pomeriggio. Dennis Ann Dorwall, una bella ragazza di 25 anni, è in macchina sulla Main Road di Observatory, che è un sobborgo di Città del Capo, Sudafrica. E con i suoi genitori stanno andando a casa di amici per il tè, hanno pensato di fermarsi e comprare un dolce. Probabilmente stanno decidendo che tipo di torta comprare quando improvvisamente si sente un botto spaventoso. Un automobilista ubriaco non ha visto la vettura dei Darvall e la centra in pieno. Il colpo è tremendo. Lo schianto è di quelli che non lasciano scampo. La mamma di Denise muore sul colpo. Il padre riporta ferite meno gravi, forse perché era al volante e riesce a tenersi. Denise viene sbalzata fuori dall'auto, batte rovinosamente la testa, riportando la frattura del cranio. Sul posto arrivano le ambulanze, i paramedici constatano il decesso della signora Darvall mentre tentano disperatamente di salvare Denise, che viene intubata, messa in sicurezza e trasportata in codice rosso. Dove? All'ospedale Groth Shore, che dista da lì solo poche centinaia di metri. È una scena che è durata solo pochi minuti, purtroppo è una scena di quelle che capitano a migliaia nelle nostre città, in tutto il mondo. Minuti tragici che vengono vissuti con molta drammaticità da una persona. C'è una donna che si trova a passare di lì, una donna che vede tutto. Quella donna si chiama Ann Vashkansky. È una donna che ha appena lasciato l'ospedale dove è ricoverato suo marito, Louis Vashkansky, 54 anni. Soffre di una gravissima patologia al cuore, inoperabile. La signora è scossa perché ha saputo che suo marito è destinato a morire di lì a poco. Quindi per lei è ancora più drammatico vedere quella scena terribile, macchine accartocciate e la ragazza sbalzata fuori dall'abitacolo. Sentiamo il suo racconto. I was very shocked. Sono rimasta scioccata perché ho assistito all'incidente senza rendermi conto che poi ci sarebbe stato un forte legame tra me e quelle persone. Avevo appena lasciato mio marito all'ospedale e stavo guidando verso casa quando vidi quel tremendo incidente. Fu terribile quando scoprii che quella ragazza era il nostro donatore. Il padre della ragazza è una persona straordinaria. Credo che solo un uomo meraviglioso avrebbe potuto fare un gesto così altruista. He's a wonderful man to have made this magnificent gesture. La signora Vashkansky vede quella scena terribile che cambierà la vita di suo marito e non sa ancora niente, non sa che Denise viene trasportata all'ospedale, si tenta di rianimarla in tutti i modi, non c'è successo. Alle 21 i medici del reparto di rianimazione del Groth Shore dichiarano la morte cerebrale della ragazza. Però il suo cuore continua a battere perfettamente. Lei viene tenuta in vita in maniera artificiale attraverso i respiratori. Bisogna capire che siamo in anni in cui il concetto di morte cerebrale non è ancora ben definito. Ed è proprio a seguito di casi come questo che viene sancita la nascita del concetto legale di morte cerebrale. Bene, Christian Barnard viene informato dell'accaduto, deve parlare col padre della ragazza. È un momento tragico perché deve parlare con un uomo che ha appena perso moglie e figlia, però è certo che acconsentirà alla donazione perché i suoi argomenti sono validi. Intanto Louis Vashkansky aspetta da mesi un cuore compatibile e non ha più tempo. Arriva il consenso, 3 dicembre 67, è una data che rimarrà nella storia dell'umanità. E io avevo 10 anni e il cognome Vashkansky me lo ricordo benissimo perché echeggiava su tutti i telegiornali del mondo. Ascoltiamo ancora la signora Vashkansky che racconta quello che era accaduto nei giorni precedenti. Visiting one day. Un giorno che ero andata a trovare mio marito, lui mi aveva detto che il professor Barnard gli aveva proposto il trapianto di un cuore nuovo. Francamente pensai che delirasse a causa di tutti i medicinali che prendeva. Pensai che intendesse una valvola o un pacemaker. Ma il giorno dopo Louis continuava a parlare di un cuore nuovo. Noi della famiglia pensavamo, se parla di un cuore nuovo lasciamolo fare se lo rende felice. Non avevamo capito che era vero. Il giorno successivo, quando arrivai, il professor Barnard mi chiamò fuori e mi parlò di questo trapianto di cuore. Gli chiesi se mio marito avesse qualche possibilità senza il trapianto e lui mi rispose di no. Allora gli chiesi se l'intervento dovesse avere successo. Mio marito potrebbe avere delle ragionevoli speranze di vita e lui mi rispose non se dovesse avere successo, avrà successo. It will succeed. Christian Barnard è un uomo molto determinato, la sua equipe è pronta, il Groth Shore è un'eccellenza della medicina mondiale e ci sono le tecnologie più all'avanguardia. Lui ha la certezza di essere pronto al grande avvenimento. Così, quando nella serata del 2 dicembre lo informano che c'è una donatrice che è compatibile con Louis Vashkansky, il professor Barnard attiva tutte le procedure del caso. È arrivato il momento. Soprattutto cerca di capire se il suo paziente è pronto. Ed è questo quello che gli risponde Louis Vashkansky. So che potrei non farcela, ma so anche che se non tentiamo, non potrò farcela di sicuro. Quello che sento, dottor Barnard, faccio fatica a esprimerlo. È una di quelle cose che si possono spiegare solo in termini di volontà di vivere. La vita in me è più forte, più determinata di qualsiasi rigetto, di qualsiasi virus, perfino più forte della mia stessa paura. Si può entrare nella storia studiando tutta la vita e affrontando un intervento come quello che sta per affrontare Christian Barnard. Si può entrare nella storia decidendo di rischiare, come fece Louis Vashkansky, che è passato alla storia per questo. Non c'è tempo da perdere. Il trapianto è organizzato e condotto da Christian Barnard, è assistito dal fratello Marius, da un team di una trentina di persone. Il cardiochirurgo, è teso come una corda di violino, anche se la sua preparazione è stata minuziosa, ogni movimento è stato ripetuto decine di volte, nulla è lasciato al caso. Però qui non stiamo parlando solo della vita di una persona, ma di un evento storico a cui tutto il mondo sta assistendo con trepidazione. E io ricordo ancora, scusate se parlo dei miei ricordi, ma è importante, i telegiornali che aprivano con questa storia di quest'uomo che da un'altra parte del mondo stava cambiando la storia della medicina e della chirurgia. E io, bambino, guardavo a questo come un eroe dei tempi nuovi che io stavo per affrontare. Dopo 9 ore in sala chirurgica, il cuore di Dennis Darvall viene impiantato con successo nel corpo di Louis Vashkansky. Funziona regolarmente. La conferenza stampa che tiene Barnard al termine dell'operazione è emozionante. Penso che si sia trattato di un intervento certamente complesso, ma anche molto ben studiato sulla carta, e quindi non abbiamo avuto sorprese. È andato tutto bene. Il paziente vive con il cuore nuovo. Le sue funzioni sono regolari. Ho la consapevolezza di aver vissuto un evento unico. Sono il solo medico al mondo ad aver visto un paziente senza cuore tenuto comunque in vita. Christian Barnard è l'eroe del momento. La straordinaria notizia che un uomo sta vivendo con il cuore trapiantato di un'altra persona fa il giro del mondo in poche ore. E lui diventa celebre in pochi minuti, è conteso dai telegiornali di tutto il pianeta. E i talk show lo vogliono, c'è un'attenzione mediatica immensa che si riversa su di lui. Veramente si parlava solo di questo bell'uomo del Sudafrica che stava cambiando il mondo. Nel frattempo le condizioni di Vashkansky appaiono buone, si sente bene, e compatibilmente con un intervento così invasivo, è felice di avere una possibilità di vita nuova. Naturalmente siamo veramente al primo tentativo, e a causa dei farmaci immunosoppressori nel giro di una quindicina di giorni il paziente si ammala di una polmonite incurabile. La notte del 21 dicembre 67, 18 giorni dopo l'intrapianto, Vashkansky muore. Nonostante questo, l'intervento è considerato un enorme successo da tutto il mondo medico, è una pietra miliare della storia della chirurgia. Barnard nel comunicato appare dispiaciutissimo, ma ha molte cose da spiegare. Il signor Vashkansky non è morto a causa dell'intervento. È stato tristissimo constatare durante l'autopsia come il cuore trapiantato fosse in condizioni perfette. Era bellissimo. Le suture erano intatte senza alcuna infezione. È morto purtroppo di una polmonite, ma l'organo trapiantato aveva un aspetto del tutto normale. E Barnard diventa una stella internazionale, celebrato in tutto il mondo, viene invitato in America, partecipa a talk show, programmi televisivi, tiene lezioni nelle maggiori università, incontra politici, scienziati, e intanto però sta lavorando perché prepara il secondo trapianto di cuore, che avviene il 2 gennaio del 68. Il dentista Philip Blayberg, che ha 58 anni, è un cardiopatico grave e in fin di vita riceve il cuore di un ragazzo di colore, Clive Haupt. E questo secondo intervento fa parlare almeno quanto il primo. Intanto si parla del cuore di un uomo nero trapiantato in un uomo bianco, e siamo in un Sudafrica particolare, è il Sudafrica dell'apartheid, e quindi è anche dal punto di vista, come dire, morale, etico, filosofico, è un passo piuttosto avanzato. Barnard viene considerato un eroe, riceve il premio di uomo dell'anno da parte dell'Unione degli Stati Africani. Blayberg sopravvive 19 mesi e migliora sensibilmente il risultato del primo trapianto, e così avviene con il terzo, una donna di colore che riceve il cuore, altra notizia particolare in quel Sudafrica. questa donna di colore riceve il cuore di un uomo bianco, sopravvive 12 anni. Devo dire che all'inizio la mortalità era molto più alta e i pazienti non sopravvivevano quanto si sta verificando con i successivi trapianti. Questa è una procedura che viene riservata a pazienti per i quali non possiamo fare altro. Ma comunque abbiamo migliorato alcune cose, risolto diversi problemi, trovato nuovi trattamenti. Le cose positive superano di sicuro quelle negative. Allo stato attuale sappiamo abbastanza sui trapianti di cuore da poter prevedere quello che accadrà al paziente. E quindi si può dire che non sia più da considerarsi un esperimento. E Barnard continua a realizzare trapianti di cuore per molti anni e ha un successo grandioso anche sotto il profilo della sopravvivenza dei pazienti. Per esempio Dirk Van Ziel, che viene operato nel 71, sopravvive 23 anni e stabilisce un record per quegli anni, cioè il paziente più longevo della storia dei trapianti di cuore negli primi anni 70. La stella di Barnard continua a brillare per molti anni e non solo per le sue imprese come chirurgo, ma anche per la sua costante presenza nei rotocalchi mondani. Nel 70 divorzia dalla prima moglie e si sposa con la bellissima Barbara Zöllner, dalla quale avrà altri due figli. 12 anni di matrimonio e poi lascia Barbara e sposa la giovanissima modella Karin Sethholm, con la quale ha altri due figli, giungendo a quota 6, 2 più 2 più 2. Niente male, diciamo che è uno che con le faccende di cuore ci sa fare. È però un fatto terribile per un chirurgo: si ammala di artrite reumatoide, cioè una malattia che gli impedisce di continuare a operare. Abbandona le sale ospedaliere nell'83, così inizia a interessarsi alla ricerca sull'anti-invecchiamento. Diventa consigliere alla Clinique La Prairie in Svizzera, dove si praticano delle terapie dei ringiovanenti, insomma un po' controverse, insomma un po' un crepuscolo particolare. Torna comunque a far parlare di sé, ma per l'estetica e non più per battiti cardiaci. Muore di un attacco di asma mentre si trova a Cipro in vacanza il 2 settembre 2001, a 79 anni, 6 figli, 3 mogli, una più bella dell'altra, ma soprattutto un'eredità enorme a tutta l'umanità. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala per se stesse e altre che lo hanno fatto anche per la comunità nella quale vivevano, come Christian Barnard, che ha segnato la strada per una svolta nella medicina, nella chirurgia, nella sopravvivenza degli esseri umani. E ognuno di noi nella sua vita può anche cadere, però può darlo quel colpo d'ala che ti può far volare in alto, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci sui nostri social, insomma, se volete mi trovate.